figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buon pomeriggio da Valentina Furlaneto, benvenuti a questo appuntamento. Oggi parliamo di una storia abbastanza assurda, comunque di discriminazione, capitata a un giovane giornalista. Si chiama Maurizio Molinari, vive a Bruxelles e ha risposto ad un annuncio di una radio, Radio Max, un'emittente radiofonica austriaca che cercava speaker e giornalisti di lingua italiana. Io sono un giornalista e... Come giornalista ho mandato un curriculum a una radio austriaca che cercava conduttori in lingua italiana, perché stanno lanciando un canale, una programmazione in lingua italiana. Ho mandato il curriculum e sono stato selezionato per un casting, per il colloquio con loro. Oltre a essere giornalista sono però anche non vedente. Io non l'avevo detto, questo fatto che sono non vedente, alle persone della radio a cui ho mandato il curriculum, perché per esperienza so che se hanno una possibilità di selezionare diverse persone e tu gli mandi un curriculum specificando la tua disabilità, loro tendono a non selezionarti, magari ti rispondono con una bella lettera dicendo che il tuo curriculum è stupendo, però poi alla fine quando si tratta di chiamarti chiamano qualcun altro, e se lo possono permettere, perché ovviamente avendo la scelta delle persone evitano il problema. Una volta che io però sono stato selezionato per il colloquio sulla base detto, del tuo curriculum? Sulla base del curriculum, senza che loro sapessero della disabilità, mi sono detto: ma proviamo diciamogli che sono non vedente, non sia mai che il colloquio preveda un test scritto per cui io debba portare il mio computer o per cui loro magari mi debbano fornire una versione online, una versione digitale, in Word, un documento Word, qualcosa. Insomma, comunque mi sembrava giusto farglielo sapere. Mi sembrava giusto, voleva dire che non ero neanche obbligato in quel momento, perché io la mia disabilità la posso anche non dire fino al momento dell'intervista. È come dover dire se sono bianco o nero, come dover dire il mio orientamento sessuale, come dover dire se sono una donna. Sono dati che si possono dire o non dire. Fatto sta che dopo che io ho detto a quelli della radio che ero non vedente, è seguito un silenzio comunicativo. Non riuscivo a rintracciarli per mail, ho fatto diverse telefonate, non riuscivo a sapere esattamente l'ora e il luogo del colloquio, sapevo solo che avevo questo colloquio il tal giorno, e in realtà dopo 5-6 giorni di silenzio da parte loro, dopo 1000 telefonate, mi arriva una mail dall'oggetto: siamo molto dispiaciuti. E io quando ho letto l'oggetto della mail ho pensato: ma saranno dispiaciuti perché non mi hanno risposto e mi daranno ora tutti i dettagli. Invece nella mail c'è scritto che siccome io ero non vedente e l'avrei dovuto dire dall'inizio, loro annullavano praticamente il colloquio. Io non dovevo più andare al colloquio perché lo studio, a loro detta, lo studio non sarebbe stato adattato alle necessità dei non vedenti. Lo studio radiofonico. Lo studio radiofonico. Io ho chiamato per chiedere che cosa volesse dire lo studio adattato. Mi hanno detto che il problema era la gestione di quantitativi grandi di mail ogni giorno, cosa che io già faccio. Io faccio 4 lavori qua a Bruxelles e ho centinaia di mail al giorno. Ci sono programmi che lavorano attraverso uno scanner, attraverso il riconoscimento dei caratteri, che permettono la gestione di documenti cartacei. Tu hai spiegato loro che, come la maggior parte dei non vedenti, utilizzi degli strumenti tali che ti fanno tutto sommato superare questa disabilità, leggere, scrivere, insomma sei un giornalista. Io ho spiegato tutto, loro tutto. Se tu vedi il mio curriculum e quindi mi chiami per le capacità, dovresti sapere, cioè ti dovresti chiedere come fa a fare uno tutte queste cose. Io ho spiegato tutto e ho anche detto: io posso accettare che noi ci vediamo e che valutiamo insieme e capiamo che le difficoltà sono insormontabili e quindi che non vale la pena provare, ma almeno cercate di vedermi. Ormai mi avete chiamato per il colloquio, oltretutto è anche stupido perché loro sono molto attaccabili adesso. Se loro mi avessero chiamato per il colloquio e mi avessero poi scartato, perché magari avevano trovato un candidato migliore, perché avrebbero dimostrato con i fatti che le difficoltà erano effettivamente insormontabili, io l'avrei accettato, non avrei fatto nessun casino. Non voglio essere preso solo perché sono non vedente, non voglio che la mia disabilità giochi né in positivo né in negativo in questa sfera, non deve assolutamente avere un ruolo. Loro non sanno che cosa un non vedente può o non può fare, hanno letto questa cosa che sono non vedenti, si sono spaventati e piuttosto che valutare hanno preso la soluzione più facile. Io ho parlato con la direttrice dei programmi della radio e mi fa: ci dispiace, ma la decisione è stata già presa, purtroppo lei non può venire a fare il colloquio, magari ci saranno possibilità in futuro, non tenendo conto che anche la decisione di chiamarmi per il colloquio era già stata presa, quindi insomma c'è una decisione che scavalca un'altra decisione. Maurizio, tu nel frattempo avevi comprato il biglietto? Sì, io ho comprato il biglietto, loro si sono offerti di rimborsarmelo, adesso non so se lo rimborseranno, ma non è questo il problema per me. Io sono anche disposto a rischiare il non rimborso del biglietto, perché adesso ormai da una questione personale è diventata una questione di principio. Cioè, questo è un caso di discriminazione bella e buona, oltretutto anche fatta male, nel senso fatta in maniera stupida, in maniera attaccabile. Io penso adesso di rivolgermi a degli avvocati in Austria e a delle associazioni di disabili anche austriaci, intanto per avviare per valutare la possibilità di passare le vie legali, e secondo per vedere se c'è la possibilità di fare una campagna di boicottaggio di questa radio da parte degli austriaci. Poi voglio dire, adesso entriamo in un discorso anche ironico, ma cioè, fossi stato muto, dico, cioè, mi avrebbero potuto dire, ma come fai a fare radio? Ma cavolo, ma cioè, non sono muto, parlo, sto parlando con voi e ho diverse esperienze in radio, quindi anche lì, o pensi che il mio curriculum sia tutta una serie di bugie dopo aver detto il fatto che sono un momento, oppure devi accettare che... Cioè, Maurizio, tu parli e parli bene, con una buona dizione, hai studiato per diventare giornalista e addirittura ti sei spostato dall'Italia a Bruxelles per lavorare. Sì, ma oltretutto io adesso, oltre all'italiano, comunque parlo inglese, francese, tedesco, e anche il fatto di parlare tedesco mi aveva spinto a candidarmi, spagnolo e un po' di olandese, quindi insomma sono laureato come interprete, come formazione, e poi... Hai fatto la scuola di giornalismo di Urbino? Urbino, io ho avuto il praticantato, poi ho lavorato fra radio, giornali, agenzie stampa, uffici stampa. Sono giornalista professionista, parte la TV, ho esperienza in tutti i mezzi di comunicazione. E non dico che la disabilità non giochi il suo ruolo, c'è magari un periodo di adattamento, ci sono delle piccole difficoltà, ma molte delle cose sono superabili se si conoscono. E soprattutto la cosa che mi dà fastidio è non volere conoscere una situazione, ma valutarla in base a pregiudizi, valutarla in base a preconcetti, valutarla in base a paure. E ora cambiamo argomento, ci occupiamo di un tema del quale in passato non abbiamo mai avuto occasione di parlare. Spesso, parlando soprattutto del 5 per 1000 e dei finanziamenti che vengono erogati alle ONLUS e alle associazioni che si occupano di beneficenza e volontariato, è capitato di leggere fra le varie associazioni ONLUS ci sono anche i Lions Club. La loro presenza all'interno delle associazioni che si occupano di beneficenza viene sempre guardata, diciamoci la verità, con un certo sospetto. Sono dei circoli esclusivi o sono delle vere e proprie associazioni di beneficenza? Ne abbiamo parlato con il presidente dei governatori del Lions Club Italia, Achille Ginetti. Noi siamo un'associazione di uomini e donne volontari che possono collaborare con l'associazione di volontariato, nei confronti di quali possiamo appunto essere dei partner per condividere dei progetti. La cosa più immediata è la nostra presenza subito nel terremoto, subito il 6 aprile, nel terremoto dell'Aquila, in cui i Lions italiani sono stati riconosciuti dalla Protezione Civile come un'associazione di servizio che si è subito adoperata per portare sollievo all'emergenza scaturita dall'immane tragedia che ha colpito l'Aquila e l'Abruzzo. La nostra attività nel mondo avviene attraverso la nostra fondazione internazionale, che nel 2007 è stata riconosciuta come la più affidabile e la più coerente ai propri obiettivi, la ONG che non impiega assolutamente i fondi raccolti per la gestione, ma soltanto per realizzare progetti. Quindi siamo presenti in tutto il mondo attraverso le cliniche oculistiche, ma attraverso delle campagne per la terapia della cecità prevenibile, ad esempio la cecità causata dal tracoma, ma siamo presenti anche in Italia, avendo dato circa 2.000 cani guida dal 1959 ad oggi a non vedenti. Lei ci ha raccontato, e siamo molto contenti di aver capito che cosa fate, che cosa avete fatto nel mondo. Però dicevamo di questa cattiva stampa, cattiva reputazione, da cosa nasce secondo lei? In Italia il Lions Club arriva dopo qualche anno dalla fine della guerra come un momento anche di stare insieme. Far parte di un club americano, di origine americana o comunque proveniente dall'America, poteva essere un segno distintivo, diciamo un affrancamento sociale. Purtroppo questa è la caratteristica che più spesso è stata coniugata con i Lions nel corso dei decenni, ovvero persone benestanti che si riuniscono a mangiare e fanno un po' di beneficenza, ma si divertono tra di loro. Questo e non è così? Questa è un'immagine del tutto deteriore, che anche se ancora rimane purtroppo in qualche minima e soprattutto residuale evenienza, così non è, e assolutamente ci stiamo impegnando affinché questa nostra immagine venga completamente sostituita da quello che dicevo prima, donne e uomini che si mettono a disposizione degli altri con le proprie possibilità, ma non certamente non economiche, ma di capacità, di tempo, di professionalità e di disponibilità. Sì. Lions Club International è stata fondata nel 1917 da tale Melvin Jones, un giovane dirigente di Chicago, massone, socio di un'associazione professionale rivolta alla crescita del benessere economico dei propri soci. Quindi insomma è un po', sono un po' le origini e questo essere affiliato da parte di questo fondatore alla massoneria, benestanti. Ma guardi, il discorso che Melvin Jones nel 1917 faceva parte di un business club, ovvero un club d'affari, così come era molto diffuso questo tipo di circolo nell'America dei primi decenni del Novecento. Ebbene, Melvin Jones ebbe l'idea, la genialità, no, non dobbiamo fare un club, un business club, bensì un club di persone che si mettono a disposizione perché non, degli altri, perché non si può andare lontani se non si fa qualcosa per gli altri. Il discorso della presenza massonica in quel momento, come nella natura diciamo costitutiva dell'associazione del Lions come delle altre, come della stessa nazione americana in cui la massoneria è presente anche oggi, non è assolutamente una cosa che è deteriore, tutt'altro è un ulteriore, a nostro modo di vedere, supporto, anche stato in quel momento un supporto anche di idealità che sicuramente dalla quale la nostra associazione ha preso sicuramente gli elementi. Questo però, anche questo aspetto, io credo, non so di preciso quanti sono affiliati oggi e sono presenti nella nostra associazione, ma ritengo assolutamente che l'importanza è quella di vivere nello spirito vero, sincero, coerente del nostro codice etico per perseguire in amicizia, sottolineo, gli scopi della nostra associazione, che sono scopi profondamente di umana solidarietà. Ed è tutto per oggi, il prossimo appuntamento con Figli di un Dio Minore domenica prossima alle 14:15. Una buona serata a tutti da Valentina Furlanetto.